ogni tanto penso se sia il caso o meno di sbarazzarmi di qualcosa, ma boh, ogni volta rimando, boh, vediamo un po' cosa succede. Sì, comunque ho scremato di brutto e anche radio che mi erano rimaste dal 90 e dintorni, scremato di brutto, qualcuna venduta, se si poteva vendere, certo mi vergognavo di chiedere anche i soldi, le regalavo, ecco, c'è stato un repulisti, potremmo dire, dai. Quindi del CRT c'è, cioè il 6009, mi stavi dicendo l'altra volta, e anche il 9009, così è? No, 7009 e 9009. Poi vabbè, l'equivalente alle 6009 che sarebbe l'Intech HR5005, il clone, però display rosso che io preferisco. Ah, sì. Ho capito. Sì, mi avevi mandato qualche foto un tempo fa. Quando abbiamo fatto la prova in FM oggi con Natalino, perché c'era anche Franco. Natalino e Franco li sentivo centrati, tu adesso non mi ricordo se stai modulando con Superstar, ti dovevo centrare appena, dai. Allora, se avevo il bip ero col Superstar. Sì, perché quell'apparecchio, a parte la deviazione FM funziona esclusivamente in trasmissione, quella regolazioncina lì, no? Però ho notato, ma anche questo lo fa, quello di più, che l'FM deve andare col clarifier tutto a sinistra. Nel tuo esemplare era ancora più accentuata la cosa. E quello è praticamente quello che ti avevo spiegato tempo fa, che hanno una di fabbrica, questi cinesi o in questo caso malesi, li fanno una messa a punto molto porcheddina, capito? Un allineamento veramente rozzo, per non dire che non sono allineati, tanto poi sta all'utente finale farselo allineare bene da chi di dovere, però caspita, boh, almeno da nuovo uno pretende che sia un po' centrato, no? Ehi, vabbè, vabbè. Ne ero a conoscenza, me l'avevi già descritto il tallone d'Achille di questa cosa qua, vabbè, stiamo parlando veramente di fesserie, che però praticamente non ti invogliano tantissimo a usare l'FM, vabbè, forse per abitudine, siamo stati sempre abituati a usare l'AM, per cui, però sai, è come avere la pietrolina dentro la scarpa, no? Cazzo, che non ti fa male, però ti dà fastidio. Piccolo, però ti dà fastidio, Invece quelli amatoriali sono più curati, molto più curati. Lì, vabbè, i baracchini sono sempre considerati una cosa di serie B, serie C, eccetera. Poi che altro? Luca, c'è ancora. Alla frutta sono, me. Si sarà stancato, stava spippolando col cellulare. Spippolando. Che strano sta cosa qua, io non trovo più. Vabbè, comunque. Niente di che. Bene. Vabbè, anche oggi siamo fatti una chiacchierata, dai. Bene, ci voleva, dai. Non ho idea di chi ci sia dall'altra parte, ma adesso continuo a smanettare su internet e mi cerco qualcosa di interessante da spulciare, dai. Andavex, oh yeah. Vabbè, Marco, lì, dai, io ti saluto e ci aggiorniamo quanto prima, dai. Saluto Luca, se ancora l'ascolto. Niente, dai, ci aggiorniamo presto, ok? Eia, dai, sentiamo. Ciao già, tanto sono un po' così stanco, non al limite ascoltare sul 10 se c'è gente, se no mi attacco la TV, ok? Ci sentiamo, ciao, buona serata, ciao Luca, ciao a tutti gli ascoltoni, ciao. Ciao Marco, ciao Luca, se c'è l'ascolto, buon proseguimento.